Fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte. Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi. Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani. Radio Possum ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di antispecismo, liberazione animale e della terra. Invio! Non si può entrare qui! Fuori! Prima o poi vi sparo! Ed eccoci in collegamento con il consueto appuntamento di Radio Possum. Un po' in ritardo perché appunto eravamo in diretta con il presidio con dei lavoratori dell'Alcoa e incompareremo questa puntata di nuovo di caccia e antibracconaggio e bracconaggio, sentendo appunto un attivista che ha partecipato a recenti campi. Un attivista che abbiamo sentito già altre volte, insomma, il nostro uomo di fiducia, no? Ha partecipato questa volta a un campo in Francia e ci spiegherà lui un po' quello che succede in questa regione della Francia vicino ai Paesi Baschi francesi, che tipo di bracconaggio si svolge, come è stato il campo e insomma tutto quanto. Brevissima pausa musicale e poi andiamo subito con il contatto telefonico. Consuming animals. Recognize my form of a friend. continuiamo a mettere musica perché stiamo cercando appunto di metterci in contatto, ma non ci riusciamo. Guardateci tutti, siamo qui e stiamo ballando attorno al fuoco e stiamo. Allora, eccoci in linea con Piero, ci senti? Sì, vi sento. Ok, innanzitutto un saluto e poi niente, se ci vuoi cominciare a raccontare il campo in Francia, innanzitutto perché siete andati in Francia, cosa succede in questa regione di cui non mi ricordo il nome tra l'altro, e che tipo di bracconaggio viene praticato e via dicendo, prima diciamo così uno sguardo introduttivo al fenomeno. Ciao a tutti e a tutti, siamo appena tornati dal campo antibracconaggio in Francia, nella regione atlantica, l'ovest, zona Mont-de-Marsan, sulla Tour Tartà, sotto Bordeaux in poche parole. Lì c'è una pratica di bracconaggio e di caccia illegale, fortemente praticata, a un uccello in particolare, uno zigolo, si chiama l'ortolano, un uccello in fortissimo pericolo, a rischio di estinzione, che fa una rotta migratoria particolare, passa al nord dell'Europa, l'ovest della Francia, per attraversare i Pirenei e andare arrivare in Africa. E lì in questa zona delle Lande, la zona viene chiamata delle Lande, viene catturato a scopi alimentari economici. Siamo andati per la seconda volta, il periodo è abbastanza preciso, dal 25 agosto ai primi di settembre, questi sono i giorni in cui si concentra il maggior passo degli uccelli in migrazione, e cacciatori francesi creano delle aree di cattura spianando il terreno e mettendo dei richiami vivi, quindi degli altri ortolani catturati in precedenza, i quali col loro canto, per lo più sono dei maschi, attirano altri individui che vengono catturati con le trappoline, si chiamano le matolle, che vengono poi utilizzate in altri periodi per una caccia legale, stavolta alle allodole. Una volta catturati, questi ortolani vengono messi all'ingrasso, quasi con la stessa tecnica del foie gras. Infatti questa zona è anche nota per gli allevamenti di oche e di anatre, con le quali vengono ingozzate di cibo affinché il fegato cresca e si faccia questo cibo molto di nicchia, molto frequente in Francia, ma anche nel resto del mondo, sia appunto patè de foie gras. Allo stesso modo l'ortolano, una volta catturato, viene messo all'ingrasso fino a dicembre, dove verrà consumato in maniera decisamente ambita da persone più che benestanti, che mangiano questo uccellino che è in grassa dismisura e viene venduto addirittura 150 euro l'uno. E questa pratica è anche famosa a livello globale, c'è anche richiesto, c'è anche una sorta di come si può dire, di ricerca di nicchia, perché innanzitutto viene definito come uno dei piatti più particolari al mondo. E poi addirittura il François Mitterrand, prima di morire, sul punto di morte, come uno degli ultimi desideri che espresse fu quello di poter mangiare questo uccellino. Quindi una tradizione molto vecchia in Francia, e viene difesa proprio con i denti, con la forza, da questi bracconieri che si arricchiscono sulla pelle di questo uccello in via di estinzione, fortemente protetto. Sono veramente poche migliaia le coppie ancora presenti al mondo, quindi è un'emergenza incredibile, ne vengono catturate diverse centinaia in questo piccolo periodo in questa zona. Noi abbiamo organizzato per la seconda volta il campo, avevamo soltanto delle informazioni un po' vaghe dall'associazione principale francese, che è l'LPO, corrisponde alla LIPU italiana, BirdLife International, la quale ha fatto delle azioni sul territorio, partendo per lo più da Bordeaux, con una ricerca sul campo e anche con un aereo negli anni passati per individuare queste aree di trappolaggio. Noi siamo andati un po' alla scoperta, l'anno scorso in tre persone, abbiamo trovato una situazione incredibile, cioè molti siti attivi con questi gabbiette, con uccellini imprigionati a far da richiamo ad altri uccellini. L'anno scorso abbiamo ottenuto dei buoni risultati, però era esplorativo. Quest'anno invece abbiamo raddoppiato le forze, siamo andati in 9 volontari da Italia, Germania e anche una fotoreporter molto famosa degli Stati Uniti, freelance, si chiama Caroline Drake, che ha documentato una macchina fotografica del secolo passato, inizio secolo passato, le nostre attività. Avevamo molti punti da capire, ci siamo divisi in dei gruppi e siamo riusciti a liberare addirittura 80 uccelli, una cifra molto alta visto il breve periodo e l'esiguo numero di volontari. E la cosa interessante, la cosa molto divertente di questo campo, almeno la magra consolazione, è che gli uccelli che troviamo in queste gabbiette li riusciamo sempre a liberare e volano quasi tutti, tranne quelli che hanno le ali tagliate. Lì avevamo un supporto da un centro di recupero ai Paesi Baschi francesi e sono riusciti a, diciamo, ad adottare per recuperare gli ortolani in difficoltà. Credevamo che fosse, se dovete fare domande, fatele. Sì. Mi senti? Sì, sì. Ciao Piero, allora volevamo chiederti che tipo appunto di risposta ci avete avuto con i bracconieri, con la gente appunto del luogo, con non so, che con le istituzioni, la polizia, che tipo di rapporti avete avuto? Problemi, se ci vuoi raccontare. Certo, questo in realtà deve essere un campo tranquillo. Tra l'altro è stato fatto anche in collaborazione un po' con Radio Possum, anche da un attista della radio a partecipare. Diciamo c'era uno dei nostri su con voi, diciamo. esatto. E non se ne è passata tanto bene, adesso ci racconti. No, non venuto come tra virgolette reporter, non avevo come attivista. E doveva essere un campo tranquillo perché l'anno scorso effettivamente un'area vastissima, si parla di centinaia di chilometri, spaziavamo proprio da una zona all'altra, da una città all'altra, si va per lo più in estesissimi campi di mais, tra l'altro le zone sono infestate da colture OGM di campi di mais, il territorio è totalmente devastato da questa monocoltura che è tra l'altro alternata a allevamenti di foie gras e anche ad arene di corride, perché quasi nessuno sa che in quella zona la corrida è fortissima e molto presente, quindi la situazione è un po' a livello territoriale abbastanza brutta e pesante. Comunque l'anno scorso individuavamo i siti di trappolaggio, liberavamo gli uccelli, qualche volta c'è stato qualche scontro con bracconieri, però per lo più sembravano delle persone facevano a tempo perso. Invece quest'anno abbiamo visto che dato siamo riusciti a liberare un enorme numero di uccelli, quindi 80, enorme relazione al numero degli uccelli, e il danno economico è elevato perché ogni bracconiere aveva 5 uccelli, abbiamo visto un uccello costa 100-150 euro e ne attira altri, quindi si sono organizzati i bracconieri, sono successi degli episodi veramente, veramente gravi. Un giorno una trentina di bracconieri hanno bloccato la macchina ai nostri amici e sono riusciti a fuggire, sfuggono verso il centro della città e vengono inseguiti da un corteo di oltre 10 automobili che poi li bloccano e circondano di nuovo l'automobile. In questo caso interviene la gendarmeria che non fa assolutamente nulla, anzi ridacchiava, abbiamo pure un video che ridacchiava con i bracconieri, i quali addirittura prendono e spruzzano dell'urina, probabilmente di maiale, in faccia ai volontari. Quindi è stata una situazione decisamente spiacevole, però si è fermata lì per fortuna. Non invece così è successo un paio di giorni dopo, dove sul punto di trappolaggio c'era un bracconiere letteralmente armato con un fucile. Appena visto i volontari ha sparato prima un colpo in aria, poi un colpo contro, addirittura ha colpito i campi di mais dove i volontari si sono nascosti. Un terzo volontario appunto di Radio Possum, che era ignaro di tutto ciò, doveva soltanto andare con la macchina a prendere i volontari che erano scappati, si è trovato questo bracconiere che nel frattempo aveva preso la sua automobile, gli ha tagliato la strada, il bracconiere è sceso dalla macchina e col fucile in mano, impugnandolo, gli ha puntato il fucile contro, pronto a sparare. Il volontario invece è riuscito a scappare velocemente, il bracconiere ha ripreso la macchina, l'ha inseguito per chilometri e chilometri, addirittura noi abbiamo fatto pure un video in cui io parlavo in diretta con il compagno che stava presente al campo, in cui scappava e io gli dicevo proprio di andarsene via, di cambiare paese, e il bracconiere l'ha inseguito per chilometri e facevano gli incroci a 130 all'ora senza neanche fermarsi agli stop, quindi situazione veramente, veramente rischiosissima, veramente grave. Alla fine si era riuscito a far perdere le tracce. Nel frattempo un altro gruppo, in cui c'ero anch'io, di 4 persone, avevamo visto la nostra automobile che era nel bosco nascosta, invece era stata scoperta dai bracconieri, i quali l'hanno circondata. Noi da lontano siamo riusciti a vedere la scena, abbiamo visto anche che ci tagliavano le gomme. dopo un'ora e mezza ho fatto dei tentativi, vista proprio l'emergenza serissima, molto grave, proprio a rischio della vita, avevamo chiamato la gendarmeria che in un'ora e mezza non si è mai vista, addirittura ci ha consigliato di andare via per non si ha tramite con quali altri mezzi, perché per loro stessi era difficile gestire la situazione, non hanno fatto altro che tornarsene in caserma. Dopo qualche ora che noi avevamo camminato per chilometri e chilometri, la gendarmeria ci chiamava, ci è venuta a raccogliere a tutti 8 noi volontari dispersi nei boschi, ci hanno portato in caserma per varie ore e si è scoperto che addirittura i bracconieri a cui abbiamo liberato gli uccelli ci hanno denunciato, quindi non solo sparati, ma urina addosso, gomme tagliate, ma ci hanno anche denunciato. E la cosa bellissima è stata che poco dopo arriva una lettera del prefetto della zona, il quale ci ha letteralmente espulsi dalla Francia con un foglio di via, dicendo che dovevamo terminare immediatamente ogni operazione e il caso contrario saremmo stati arrestati. E noi il giorno dopo, per fortuna era l'ultimo giorno, comunque il giorno dopo avevamo l'aereo, siamo dovuti andare via velocissimamente dalla Francia. Quindi situazione incredibile da ogni punto di vista, resta chiaramente la gioia di aver liberato quegli 80 uccelli, aver disinnescato 679 trappole e abbiamo scoperto tanti siti attivi che sono per lo più introvabili se non dall'aereo, invece non siamo riusciti a trovarli sul territorio. E poi si è sollevato il polverone, chiaramente, non solo stiamo qui a raccontarlo su Radio Onda Rossa, però alcuni giornali, soprattutto francesi della zona, ma c'è stata una sorta di solidarietà con altri gruppi locali che si sono spaventati. Sappiamo che ieri addirittura sono andati nei posti nostri, hanno liberato altri uccelli, quindi si è creato un movimento dopo di noi, per fortuna. E è intervenuto anche un europarlamentare, il quale ha scritto al ministro francese Hollande dicendo che l'anno prossimo parteciperà con noi al campo, speriamo che serva, insomma, poi chissà, si sa, può essere tutto ambiguo o populista, però è sicuramente comunque da una situazione tranquilla. Abbiamo visto che appena si ottenevano dei risultati c'è stata una fortissima proprio repressione. Abbiamo notato l'enorme connivenza delle autorità, della gendarmeria, del prefetto, dei mass media con i bracconieri locali, che addirittura è una pratica totalmente illegale, però non intervengono assolutamente, anzi abbiamo visto proprio parlottare e addirittura accogliere le denunce contro di noi. Questo è un quadro di quello che è successo. E senti, tra l'altro l'argomento su caccia e bracconaggio è quanto mai attuale, perché adesso sta per cominciare la stagione dei venatori, è periodo di migrazione di uccelli e quindi anche di campi antibracconaggio che si svolgono sia in Italia che in Europa. Per chiudere, ci fai un quadro sia sull'attività venatoria cosiddetta legale sia sull'attività venatoria cosiddetta illegale, cioè il bracconaggio? Non che ci sia una differenza in termini politici o etici, chiaramente, però magari ci può essere una differenza negli strumenti che ciascuno di noi può scegliere per opporsi a queste due attività, insomma. La caccia in Italia, quella legale, legalizzata, inizia come sempre la terza domenica di settembre, quindi domenica prossima, il 16 settembre, anche se ci sono state delle preaperture da alcune specie dal primo settembre, e terminerà il 31 gennaio, più poi a seconda della specie sono periodi in cui viene aperta, ad esempio a novembre, nel Lazio, al cinghiale e così via. Questa è la caccia quasi, cioè la caccia così come è prevista dalla legge 157 del 92. Tutto ciò che esce fuori dalle concessioni dello Stato, appunto sparare in questo periodo, sparare a determinate specie e non in parchi, viene cosiddetto bracconaggio. Come già ho detto più volte, il confine è abbastanza labile, perché basta che viene emessa una deroga a cacciare una determinata specie considerata nociva, non so, penso allo storno, fuori dalla stagione della caccia, oppure vengono limitati i confini di un parco nazionale o regionale. Alla fine quello che è il bracconaggio, questa pratica cosiddetta illegale, viene totalmente legalizzata. Quindi ci tengo sempre a dire che le differenze non ci sono, anche perché comunque tutti i bracconieri che vengono beccati dalla forestale o che vediamo noi, documentiamo noi, hanno tutti quanti il porto d'armi, la licenza di caccia. Quelli che non ce l'hanno è perché magari hanno già dei precedenti penali per i quali quindi non gli viene concesso il porto d'armi, qui la differenza non c'è assolutamente. Io invito comunque persone a non stare con le mani in mano ora che apre la caccia. Innanzitutto sappiamo che i cacciatori possono entrare nelle proprietà private quando non sono recintate in una determinata maniera, perché anche se recintate in maniera blanda o con dei cartelli non hanno alcun effetto deterrente per i cacciatori, neanche come vincolo legale. Quello che intendo è di riappropriarci comunque del territorio, degli spazi, dei boschi, delle campagne, mettendo, non so, in azione la fantasia. Noi ad esempio a Roma ci stiamo organizzando per fare un disturbo venatorio domenica prossima, cioè andare proprio dove sono i cacciatori, andare dai cacciatori, passeggiare, disturbarli sempre. Purtroppo che dobbiamo, cioè purtroppo, abbiamo per fortuna la nostra il vantaggio legale, comunque anche noi possiamo camminare nei boschi, fare quello che vogliamo, sentire musica, giocare a pallone, fare quello che vogliamo, quindi è una pratica abbastanza facile da fare. Certo bisogna stare attenti ai pericoli, che sono innanzitutto che delle persone arroganti armate davanti, poi anche di stare attenti a non entrare in proprietà private, non avere la testa sulle spalle, cioè non rispondere alle provocazioni e così via. E invece, scusa che ti interrompo, forse stavi dicendo la stessa cosa. Ti volevo chiedere, rispetto ai campi invece antibracconaggio, cioè ci sono campi programma? Chiaramente adesso inizia la migrazione forte fino al periodo principale, ottobre-novembre. Ci sono una grande quantità di campi antibracconaggio, quindi proprio di contrasto alla pratica che vede l'uccisione con vari mezzi di uccelli in migrazione, ma non solo di uccelli, anche di ungulati e così via. Adesso è proprio per il periodo di campi, ci sarà tra i più importanti, proprio già adesso in corso, il campo antibracconaggio a Malta. Tra l'altro la mia ragazza parte proprio tra un paio di giorni, dove c'è la caccia ai rapaci, poi io vado subito dopo a quello a Cipro, già ne avevo parlato, comunque per lo più a piccoli uccelli come carabiniere vengono usati per venderli ai ristoranti, quindi valore. Tra l'altro mi sa la prima volta che ti abbiamo sentito, tu eri proprio a Cipro. Sì, esatto. E ci esatto, hai raccontato sempre di aggressioni, ecco. Là proprio quello degli spari in Francia adesso era la cosa base proprio. Tra l'altro quest'anno c'è pure sorte il ruolo di responsabile per metà campo, quindi sarà ancora più curioso di vedere come andrà a finire. Poi c'è il campo storico, esiste da più di 30 anni nelle valli bresciane, dove tantissimi volontari da tutta Italia, dalla Germania e dall'Inghilterra, contrastano il fenomeno di cattura per lo più di petti rossi tramite gli archetti e le reti. Lì serve sempre un gran numero di volontari. Poi noi qua da Roma, col nostro gruppo attivismo, da sempre, cioè da vari anni, organizziamo il campo di bracconaggio all'Isola del Giglio per il coniglio selvatico, oppure Ponza e Ischia, sempre per i piccoli uccelli principalmente, ma anche sparano anche uccelli più grandi. Come sempre si possono trovare riferimenti su vari siti, posso nominare quello appunto l'organizzazione di cui faccio parte, che è il CAPS, Comitè Against Bear Slaughter. Il sito è www.comite.de, comitè scritto con la K e due, ci sono anche le pagine in italiano e in inglese, oppure anche penso scrivendo a Radio Possum, dato che tutti i collaboratori della radio partecipano attivamente sia disturbi venatori che ai campi. E poi ci sono campi in Sardegna a dicembre, questa volta parteciperò per la prima volta a un campo a Valencia, dove mettono tipo ciclo della colla sugli alberi per la cattura di tordi e altri piccoli uccelli, quindi sempre sarà un autunno e inverno abbastanza intensi da questo punto di vista, sperando che siano pochi gli episodi gravi e che liberiamo sempre più animali. Va benissimo, ti ringraziamo per la disponibilità e per averci aspettato fino a quest'ora. E dai, ci risentiamo al prossimo campo, alle prossime speriamo di no, ci sto scherzando, alle prossime fucilate e roba del genere. No, speriamo buone notizie. Grazie. Speriamo, sì, infatti. Grazie, ciao a tutti. Ciao, buonanotte, grazie. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Un po' di musica e poi rientriamo, e tra l'altro un brevissimo inserto musicale, perché proviamo a sentire gli operai dell'Alcoa che sono ancora in lotta qui a Roma di fronte al Ministero delle Attività Produttive. something. Allora, rientriamo in trasmissione con lo spazio degli appuntamenti e delle notizie. Allora, il primo appuntamento che diamo è la manifestazione nazionale contro la caccia, che ci sarà a Brescia, una zona che, come abbiamo già detto in altre circostanze, è ad alta concentrazione appunto di caccia e di bracconaggio. Manifestazione organizzata da vari comitati e associazioni locali, che appunto ci sarà il 19 settembre alle ore 15. Il 15 settembre alle ore 15 in via Volturno a Brescia. Ok, altro appuntamento di cui si fa molto parlare è quello del 20 ottobre, corteo nazionale contro Arlan e la vivisezione. Arlan è un altro grosso allevamento di animali destinati alla vivisezione, al pari di Green Hill, diciamo, sia come struttura di proprietà, sia come dimensioni dell'allevamento, è più o meno quello che è Green Hill, con la differenza che Green Hill almeno in Italia alleva cani, Arlan alleva scimmie e macachi, che poi vende ai laboratori di vivisezione. Anni fa alcuni attivisti entrarono in uno stabilimento dell'Arlan in Lombardia e documentarono scene assolutamente raccapriccianti, scimmie chiuse in gabbia, c'erano anche cadaveri di topi e cadaveri di topi abbandonati, putrefatti, e la stessa cosa anche cadaveri di conigli. La manifestazione si terrà il 20 ottobre del prossimo a Correzzana, in provincia di Monza Brianza. Per qualsiasi informazione, alle ore 14:30 davanti al comune in via dei Gasperi 7, corteo organizzato dal coordinamento Fermare Green Hill e Freccia 45, quindi per qualsiasi notizia e per qualsiasi aggiornamento su questa iniziativa vi rimandiamo ai contatti del coordinamento Fermare, www.fermaregreenhill.net. Un altro interessante appuntamento dei prossimi giorni è un altro corteo, un'altra protesta. Sì, che ci sarà sabato 22 settembre a Montirone, vicino Brescia, appuntamento contro l'allevamento di visoni. Appunto, a Montirone sono detenuti 3.000 individui destinati appunto ad essere utilizzati poi per le pellicce. Questa manifestazione è organizzata appunto da comitati che si sono già spesi in altre lotte contro la vivisezione, non facendo alcuna differenza appunto tra tutte le forme di sfruttamento animale. Quindi la campagna che è partita un po' con la visizione si allarga, coinvolge sempre più attivisti e cerca di sancire l'antispecismo e quindi a contrastare qualsiasi tipo di sopraffazione e sfruttamento a diverso livello. Sì, ricordiamo gli organizzatori, sono tre realtà diverse, due di queste sono delle nostre conoscenze, nel senso che le abbiamo sentite in radio: Nemesi Animale, che è un gruppo di attivisti della Lombardia, Essere Animali, che è un gruppo di attivisti dell'Emilia Romagna, e sono le due realtà che abbiamo sentito in radio. E poi ci sono anche gli antispecisti libertari di Brescia, sono queste tre realtà che organizzano questo corteo. E per chiudere vogliamo dare una bella notizia, diciamo di sì, una bella notizia, il tempo però di ritrovarla su internet. E praticamente è stato sequestrato lo zoo di Latina, la struttura è stata posta sotto sequestro dal personale del servizio CITES, che è il personale della forestale, e sono stati sequestrati un elefante indiano, dei cammelli, degli ippopotami, struzzi, orsetti lavatori, scimpanzé, macachi e yak, perché le strutture di questo circo non erano a norma per accogliere gli animali. Chiaramente così è, diciamo, una pezza su un problema decisamente più grande, non è un semplice sequestro che può risolvere la situazione o può significare niente di particolare, però comunque insomma è una piccola buona notizia nell'ambito della lotta allo sfruttamento degli animali. E per oggi penso che possiamo chiudere, siamo più brevi del solito, lasciamo appunto la trasmissione e la telefonata appunto agli operai dell'Alcoa a chi verrà dopo di noi, comunque rimanete in linea per sapere gli aggiornamenti di questo presidio. E ovviamente un saluto a tutti e tutte, soprattutto a coloro che sono privati della libertà. Vi ricordiamo i nostri riferimenti, il blog radiopossumnoblogs.org e la mailing list a cui scrivere, lagazzaladra@inventati.org. Buona serata a tutti quanti, rimanete sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, a lunedì prossimo. Ciao.